Signore, se una volta fossi io, di due persone quello che amo meno, non fossi quello che finisce poi per chiedere scusa. Magari mi riuscisse di non dare le cose che io sento devo dare. Magari fossi io quello che chiede le cose. Amare di meno, non tanto ma quel poco, quella briciola di meno. Andare più piano, nel regalarmi agli altri come faccio ormai da sempre. Ce la faccio mai e tocca sempre a me amare disperatamente, questo tu lo sai. Signore, se una volta fossi io ad essere secondo in un ritardo, passare dal telefono e non dare uno sguardo. Magari mi riuscisse di partire, ma senza quella voglia di tornare, che mi ritrovo dentro e addosso ancora prima di andare. Per una volta lasciami pretendere, tenermi mezzo sogno da non spendere, e poi se vuoi mi scuserò. Poco quella briciola di meno, andare più piano, nel regalarmi agli altri come faccio ormai da sempre, non ce la faccio mai.